Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò. Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare, il tempo passa, l'amore scompare. Deve finire. Ma quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato, adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata. Ma guardo su. Quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. In cielo mi portò.